come già diversi paesi europei hanno fatto e altri si accingono a fare, anche l'Italia riconosce il Kosovo e naturalmente in questo modo si appresta a contribuire, a rafforzare il suo contributo alla costruzione di uno Stato effettivo, di uno Stato di diritto.